Ma che pensate che son matto? Eh sì, denartre degli rume. Un'altra radio Roma, la radio che ti fa uscire di sonno. Narca Radio Roma presenta Berti, special guest da Roma. Vertigo. Rimas de hierro en las noches con apego, prendiendo fuego, hacemos el mundo de barro. La calle es nuestra, todos nos conocen. No queremos roce con nadie a partir de las 12. El rollo caliente y profundo del sudeste. Vamos de tranqui aquí, no nos molestes. Victoria rotunda, miradas profundas. Me gustas tú, ¿cuál es tu virtud de funda? Siento que tu piel se derrama, acostado en tu cama. Tengo una sorpresa divina, canción eterna a la luna cansina. Soy vecina de ella, ya tengo fortuna. No me conformo con una, mi corazón es grande. Cuando salté de la cuna ya era enorme. Pasé el informe, el cual decía no apto. Ahora lo capto, puertas cerradas te rapto. Viviendo en un mundo oscuro, sin paredes de oro. En mi patio no hay aforo. Las luces de mi ciudad hacen de guía. A sangre fría veo tristeza y alegría. Viviendo en un mundo oscuro, sin paredes de oro. En mi patio no hay aforo. Las luces de mi ciudad hacen de guía. A sangre fría veo tristeza y alegría. Traemos sonidos de infarto, elijo y descarto. Pensaba en mi destino tras mi parto, nena. Soy un tipo listo, hago rap, luego existo. Soy humano como Cristo, me sigues la pista. El mundo en una maceta, sangre en tu camiseta. El poder de la metralleta, caminando una jungla concreta. Una ciudad pequeña, pero el tamaño no importa, ¿lo ves? Dando coces, estilo cartaginés. Como partir el kilo y poner el mundo al revés. Hoy represento el Levante, la costa, otra vez. Somos capital de algo y me consta. Mirando normal, desempañando el cristal. Me hace temblar tu orgullo nacional. Tonto, no es para tanto. Hoy te causa encanto. Ayer era espantoso, nos moriremos pronto. Viviendo en un mundo oscuro, sin paredes de oro. En mi patio no hay aforo. Las luces de mi ciudad hacen de guía. A sangre fría, veo tristeza y alegría. Viviendo en un mundo oscuro, sin paredes de oro. En mi patio no hay aforo. Ciudad hacen de guía, a sangre fría veo tristeza y alegría. Con un micrófono en la mano, sentado en el estrado, conmigo has triunfado, te he condenado. Voy en mi ciudad libre, recito un verso, reducido universo inmerso. Solo hay que ver solo, buscando el tesoro que un ignorante perdió. Es satisfacción y no es decoro. Con las manos arriba, oliendo a sudor y escupiendo saliva. Filosofía constructiva, estoy compuesto de carne, sangre y hiel. Mi cerebro, músculo, fiel. Soy dulce como la miel. No tengo pudor, robé el corazón a un niño. Solamente me hizo un guiño. Saco las de una baraja, muestro una sonrisa en mi caja. La guardo con cariño este año. Y en mi casa, honor, dedicación y fe. Hola, mi crew se llama DDT. Viviendo en un mundo oscuro, sin paredes de oro. En mi patio no hay aforo. Las luces de mi ciudad hacen de guía. A sangre fría, veo tristeza y alegría. Viviendo en un mundo oscuro, sin paredes de oro. En mi patio no hay aforo. Las luces de mi ciudad hacen de guía. A sangre fría, veo tristeza y alegría. Chiedo a quello, no, chiedo a quello. Aspetta un attimo, aspetta. Oh papà, ma che ne so? Papà. Oh, papà. Oh. Oh, Marimor. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatting. Ho capito che questo mondo è imperfetto da quando c'è la techno, ma che cazzo è questo? Un contesto di gente che vive senza alternative o un pretesto. Sono figli di tutt'altro che monache, e gli mancano le antenne, sarebbero più marziani delle cronache. A me non me ne fotte un cazzo se ti calinerebbe, fai le tue serate supersoniche. Io vengo da una generazione più nuova che si diverte pure senza la droga. Li vedi in disco, teca, la pista è vuota e piena. chi scende dal mare e chi da montagne, ogni giorno ad accontentare le loro cagne. E poi a chiamarle ragazze saresti un pazzo. Quelle non sono donne, quelle sono uomini senza cazzo. Sono i piercing più bucate di un emmental, così gli puoi entrare più dentro come la sindrome di Stendhal. Ed è per questo che il mio morale è a terra. Puzzate di merda di uno che ha mangiato merda. Magari fanno due lavori per comprare pasticche con cui non prendi pali con le fighe, tolgono i freni inibitori. Ma poi è normale che quando esci fuori non cambi le pasticche dei freni, prendi pali e muori. Fare l'alternativo, ma da un'alternativa alla stronzata che ha fatto tuo padre anni fa, e dai un preservativo, così l'avrà fatto solo col primo. E visto i precedenti, il secondo resta nel palloncino. Ma io non ballo là. Oh, ma come parli? Io parlo come mi pare. Ma che stai a dì? Beh, quello non lo sa neanche mio padre. Non lo so, forse lamento un malcontento di vivere dentro un bordello e mi dicono sia un convento. E mento se dico che so che per me sei un tipo che ti vorrei vederti che io. Io la febbre del sabato sera non la curo certo con la pillola. Semmai la tua zoccola io non ballo là. Io non ballo là. Shocks 9, ti piaccio? Belle però, guarda i pistoni argento color metallizzato. Oh, cazzo, mi sto a guardare la pischella, oh, mi sono fatto un piercing, no, c'ho punta del cazzo, Simo, c'ho la piscia più forcuta e mi piscio nell'occhi. Pronto, pronto, maestro Giorgio? Sì, sono io. C'è una supplenza, ti presenti a Bellusco per le 8? Ma scusi, sono già le 10. Vabbè, ti faccio i cazzi tuoi. E di corsa, maestro Giorgio arriva in classe e i bambini fanno chiasso. Stanno partendo le mie manate, tiro giù due madonne per imporre la mia autorità. Silenzio, bambine, se no mi faccio uscire il diario. Con Giorgio. Che palle che sei, sembra fatte cose zozze, non capisco, basta. Sei stato focoso. Lo so, c'ho una minchia tanta. Maglioni, mutande,

parcheggiato a botteghe per tutta la notte. Allerta al massimo, ce ne parlano i portavoce dei Banana. I'm staying here, just walking in the rain, in the rain. Cause I'm a freak, breaking all this chain. Hola, hola, arriva Niño Banana. Bluesman, sigaro fumante lì dalla Havana. Ho la chitarra, due monete nella sacca. Canto la canzone povera della baracca. Passa di qua, rum che brasa offre la casa. Chica extravaganza, curva e balla la lambada. Per la strada bimbi scalzi, passi falsi di donne impaurite, killer più spietati. La gente vive nella calma compagnia, giornata calda. Le bancone a lingue di fuoco, testate fra ubriachi, spinge il toro loco. Quello dice tu mi hai preso per coglione, scena di duello tu alla Sergio Leone. Uno cade, uno in piedi, puzza polvere di sparo. Sono un bluesman, canto per il grano. Mi senti, piace questo sporco e torbido blues. Lungo il fiume la chitarra suona per la tribù. Mi senti, piace questo sporco e torbido blues. Ragazzo passa, le piume impolverate, faccia stanca. Trotto poi galoppo sopra il canyon dell'Arkansas. Quattro frecce nella sacca, lo sceriffo che mi dà la caccia. Capo Geronimo stasera di sotterra lascia. Lo sciamano fuma il calume, la luna ci dice se domani sarà vento di sventura. Colori della guerra, non temo la paura. Intanto scuoio la mia squo dietro quella duna. All'ombra del mio cactus iguana, alla brace vedo segnali di fumo, tamburi degli Apache. Chiamo lupo demente, orso che tace, scimmia che crema, toro impotente, gufo incapace. Auk, correte, sono sulle nostre tracce. Prepara l'imboscata e il generale Caster spara. Fuoco, romba, tuono, contro frecce, lance. Yankee, voglio il vostro lurido scalpo, le vostre pallide pellace. Hey, cammino nella pioggia, spezzo le catene. Hey, hey, la tribù Banana è libera. La soundtrack è di Diggy Diggy Dwayne. I'm standing here, just walking in the rain, in the rain. Cause I'm a free, man breaking all these chains, all these chains. I'm standing here, just walking in the rain, in the rain. Cause I'm a free, man breaking all these chains, all these chains. I'm standing here, just walking in the rain, in the rain. Cause I'm a free, man breaking all these chains, all these chains. Come sigarette senza drum, solo cartina, solo rizzola quella buona, si stona di tanto in tanto, ma con tanto riesco a prendermi e riprendermi con rum senza la pera. Stasera sembra autunno ma già siamo in primavera, dov'è che ti nascondi? Tra candelabri spenti oppure tra le calde labbra dei tuoi 10 amanti? Distanti siamo distanti ed il gentile utente non risponde. Vorrei solo baciarti ma siamo spigoli di angoli, sei tu che mi rimbombi nei ricordi. Ricordi quando si era più felici di due dumbi? Sentire sulla pelle le mie dita come spille, taglie che sono più invisibili di orsi e di scoiattoli in letargo. Siamo targhe pari e dispari nei giorni e gli alterni, e siamo come alberghi con piscina ma d'inverno. Sangue e sudore, tutti e duprisce con un picco di cuore. Pur up, so gaffevo, pasca l'ora, farmi un culo, chiudo un mulo, fazzi calzule, tengo un tappo per le slure. Ciueca tu di gare, tu fratta da muove. Non nieca tutto gratto, pitallare, cud, big e vene. Mo ci si capita, da fai un mazzo, da che si ci no, voglio vi. Da tu fazzi chi gli ha raganato, poso le tazze. Non lo cozzo, ci gastello che te va vito, sono a cassa, chi le quattro si giurò. Derro so caduto, un derro me so acchiato, so che angiuto, me so alzato. Ne da pigliato, sciuguato, so poi la schiena mena, corso so capisciuto, sambato in culo, la da vela da sura fra. Nessuno te viene ad alzare, ci a me mamma. Le cose d'andero non so picchi, non sa.

Cinando movie e manchi canon news ma anche le parole. Ci non si muove. Non faccio nulla che sta sulla move cude cooler. Muovi quelle cazzo di chiappe, ma come bruci le tappe, di cazzate fin troppe segnate sulle mappe. Mettiamo il caso di non dare importanza alle carte, ma resta seduto ad aspettare marziani da Marte. Da Max, baby, ma Chue, Lady B, muori o vivi, ma sempre tu che decidi. Ma a questo punto cosa cazzo vuoi che te ne freghi, se aspetti la tua ispirazione mentre preghi. È il sangue che ribolle senza testa sulle spalle, sono l'MC privo di saracolle a cui misurano le palle. E sono solo i miei problemi se mi spacchi i reni, mentre tu rimani ad aspettare che un miracolo si doni. È un mondo di grattacoglioni che prendono serie posizioni su come riposare i loro enormi culoni, mentre ci espandiamo come onde radio nell'etere. C'è da Max e Lady B, fatti per farti da muovere. Con tu che vuoi pure ci chiangi non arriva, non si sposta manca ciò che mi inzagasse. Ma nudi è meglio di una cosa che ti sei sedata, cude che puoi avere per ciò che hai meritato. Muovo tu ci nopo tu niuto la capatina coro ciù e fa non si aspettando in alto papa. Sin da me tu dico come una sora non frate, a chi mi non bacio le cristiane di qual è la strada. Che se deciduto potono non votano ridi, e chi un bortando capo prima tu ad avere ci credi. Non si danna denza le ferrisse, vuoi da fare per te per ciò piace, per ciò tu metto prisci che la misce. Gli maneva che da nanza le prisse, forza che coduca forza che per ciò mi rilassesce. Poti essere pure pane a bruciare, ma c'è giumito uno squiccio d'acqua qui è la media a mangiare. D-A-D-A-MOVE Movie e canon news ma anche le parole. C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C non do movimen che cano ni su manga le parole. Ci ci dici me no ci non zumo. Non va su nuda che sta sulla move cuda cula. La neurologia, la fretta e la comodità stanno già soverchiando l'autonomia, assegnando i fini della chiesa alla farmacia. E se in futuro la società tornerà a considerare una patologia l'assenza di fede, avremo un farmaco al posto dell'oste e del prete che stilerà paura degli infuri a chi non crede. Mentre illegalmente circoleranno farmaci opposte contro i sensi di colpa, pubresia della borghesia, portando fino in fondo l'idea di fondo di Men in Black o della distopia. Se mi lasci il tirandello, forse ordineranno tecnologicamente il cervello tramite cassaforti mnemoniche, perché vuole dimenticare e poi rievocare volontariamente le nozioni momentaneamente scomode. O magari registreranno le emozioni, passandole come file, superando i metodi astrali per le millesime azioni. Per non parlare del lato notturno, il dominio dei sogni potrebbe renderli parchi di divertimento dell'assurdo. Ma in fondo non mi interessa se un giorno il transumanesimo ci riuscirà. La morale della favola è dopo la pubblicità. Restate in linea. Coscienza sporca? Bene il cristiano e la tua anima splenderà in eterno. We'll be right back. Guardarti negli occhi per paura che tu non mi stia guardando e possa spegnere la luce sulla verità, l'unica pagina di diario che non vorrei più rileggere. E ho paura di guardarti negli occhi per paura che tu non mi stia guardando e possa spegnere la luce sulla verità, l'unica pagina di diario che non vorrei più rileggere. E io immagino il mondo che si muova sotto ai miei piedi e io fermo nello stesso momento in cui magari mi vedi. Framento roscio, visuale stop motion. Metti che ho bevuto pure un goccio, il cuore me lo scotch. Tipo la sera piane gelli che mi salvano la vita, come il Beghelli, senza gioielli, anelli o cerotti all'anelli, ma solo i miei fratelli per ridere alla faccia di... E l'ultimo tabacco acceso che mi chiede pietà, fatalità, un distacco dalla realtà. Disconnesso, non comando più le mie abilità. Tutto qua si fa, quel che si può si fa. E io vedo tutto viola, rivedo tutto è meglio, le cose che vedi una volta sola, ma poi arriva il buio, come quando vai a scuola, sempre alla seconda ora, poi strilli a squarciagola, tanto poi arriva luglio. Il colore dei ricordi non l'ho mai capito, se un ricordo è qualcosa che ti ha colpito, deve essere un colore convinto, come il rosso di questo clinto, o il vestito che ti strapperei dopo un bacio sopra il viso tuo dipinto. Il colore dei baci non lo descrivo, ha un punto di inizio e di arrivo, lontani come i chilometri su cui viaggia il mio corsivo. E sulla spiaggia dove sopravvivo ci sei te, gonna di lino e mandolino, che mi dici namaste, ma qui un caffè su un tavolino è quello che la mia anima può permettersi di fare, togliere il tessuto spaziale fino a toccarsi e farsi coraggio con i piedi di pensieri bagnati dal mare. E il colore del mare quale? Dipende dal fondale. E a che serve un fondale se non puoi affondare? Magari mi serve un frontale per affrontare i fatti con l'ottica più pratica e meno esistenziale. Comprendimi, ermosa pare, come prima cosa che io debba trovarti. Mi son detto parti con la rosa fra i denti e frammenti di speranze adolescenti, colorate come le Smarties, ma che spariscono subito come i codardi o i giorni in cui ti svegli tardi. E ho paura di guardarti negli occhi, per paura che tu non mi stia guardando e possa spegnere la luce sulla verità, l'unica pagina di diario che non vorrei più rileggere. E ho paura di guardarti negli occhi, per paura che tu non mi stia guardando e possa spegnere la luce sulla verità, l'unica pagina di diario che non vorrei più rileggere. E ho paura di guardarti negli occhi, per paura che tu non mi stia guardando e possa spegnere la luce sulla verità, l'unica pagina di diario che non vorrei più rileggere. E non vorrai, non vorrai, non vorrai, che non vorrei più rileggere, no. Che non vorrai, non vorrai, non vorrai, e non vorrei più rileggere stanotte. E non vorrai, non vorrai, e che non vorrei più rileggere stanotte. Non vorrai, non vorrai, yeah. C'è un croissant sul cabaret, guardo il mio carnet, devo andare a Saint-Tropez. Apro il garage, prendo il Peugeot Bordeaux, è più comodo il metro, ma non Cookie Figaro. Vedo dopo un po' una come Sophie Marceau, fa la fioraia a Paris, si china e vedo la lingerie da sotto le culottes. Spunta un po' di moquette, mi avvicino con nonchalance, forse avrò una chance. Bella fioraia a Chanté, mi farebbe un bel bouquet, non ici ma nel privé, comunque un po' defilé. Toilette, ci verreste avec moi, va bien anche sul sofà. Apri il tuo capo, voilà, sarai bindue, dice oui, rispondo io merci, è stato tre facile. Chiude lo chalet usando il passepartout, esporrei su barbecue al Louvre che è un bijou. Mi tolgo il palto, brindo con del Pinot, dentro la salopette esplode la mia baguette. Ma scende la passion, dice se vuoi la mia papillon, devi darmi mille franc, io divento blanc. Ma quando mi ha detto il suo cachet, mi ci son voluti sei cachet, mi è tornato sul cordon bleu, mi sono un buon coupé. Letizia casta, capirei, ma tu casta al massimo sei. Sentilo, ma come non ti piace? Cioè senti questo pezzo, ferito. L'oratoria, l'oratorio è bella, ci si diverte facendo uno, due, tre stella. Che bella giornata all'oratorio, nell'oratoria facciamo una partita a uno, due, tre stella. Com'è bella la vita all'oratorio, nell'oratoria, all'oratorio. Nell'oratoria la cosa è seria, ti mostro le rime che io scrivo giù nel chiostro. C'è chi dice stella, chi tira canestro. Lì ci sta una suora, là ci sta un maestro. La ragazza è bella e io la maestro. Le dedico un testo, poi le dico il resto. Brutta vacca zozza, vuoi giocare con me al gioco che fa una, due, tre stella. Posa la cartella, seguimi in cappella. Ho una confessione, oggi ero distratto alla lezione. Pensavo a quanti giochi che si possono giocare all'oratoria. L'oratoria, l'oratorio è bella, ci si diverte facendo uno, due, tre stella. Che bella giornata all'oratorio, nell'oratoria facciamo una partita a uno, due, tre stella. Com'è bella la vita all'oratorio, nell'oratoria, all'oratorio. Tari tiri tu dall'oratorio, che storia. I tuoi genitori andranno fuori, niente più oratoria nel cortile, sotto il campanile, nel gioco infantile che fa dire uno, due, poi fa dire tre, prima di girarti rida stella. Ecco il suono della campanella che introduce l'ora che è più bella per me, perché le con le figu che scambio, vendo le riviste porno al prete ci guadambio. Bambio Pinocchio, gomito ginocchio, sconfina nel cortile mio e te sconocchio. Occhio per occhio, figu per figu, disegna la campana e non saltare sulla riga. Tira il sasso in terra, non dal cavalcavia. L'oratoria, all'oratorio è pura poesia. L'oratoria, all'oratorio è bella, ci si diverte facendo uno, due, tre stella. Che bella giornata all'oratorio, nell'oratoria facciamo una partita a uno, due, tre stella. Com'è bella la vita all'oratorio, nell'oratoria, all'oratorio. È mio zio innamorato di una suoneria retro, butta fuori che dicono tu sì, tu no. Suona, suona, campanello, patatine, bofrost. Mesi prima di viaggiare la mia vita è low cost. Per fumare quando arrivi non è scampo, t'ammazzi per cercare oppure in boschi nello shampoo. Mi tiro sulla lampo, al campo, da terra tiro fuori 10 semi e me la pianto. Dici che campo anche senza, ma prova a stare fare con. Sai la differenza tra il tossico ed il don? Donadoni come a calcio, da dietro falcio. Ostaggio. Te rilascio solo se me dai la figu de baggio. Sì, lo so che ne saggio, ma io sono nata a maggio. Poteva essere una pipa, se so fatti coraggio. Messaggio, la donna la rimbaggio. Ho pisciato le chiamate, mo se sente uno straccio. Che faccio? Sto 7 metri più basso. Bevo litri di Brunello e so che sfiorerò il collasso. Tu c'hai ragione, emancipata l'8 marzo. Assieme all'amichetta vedevo spogliare l'Ista Ricchionazzo. Si chiama Pancrazio, amico di tu pazio. Da Lazio, ni slip c'ha l'ovata, mica il cazzo. È il dazio da pagare per la dote. Nell'ora d'aria è meglio saccando il peyote. Yeah. Meglio saccando il peyote, yeah. Meglio saccando il peyote. Thank you. the music, the music, free, free, free, free, na radio ro ma ro ma abbiamo invaso il well. Un'altra radio Roma. La radio che crea il movimento. Partiamo dal mondo per tornare a Roma vincitori. Ma che te? Dicono, non è la radio, è un'altra radio. Un'altra radio Roma. Non c'è un'altra. Radio Roma. Nostra Radio Roma, dove la musica è la padrona.